Container, l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Finita la fase di piena emergenza legata al Covid-19, è il momento per molte aziende di valutare le conseguenze sull'economia della crisi sanitaria. Per le imprese di autotrasporto ci ha pensato un'analisi realizzata dall'ufficio studi di Conftrasporto Confcommercio, che ha calcolato in 1,8 miliardi di fatturato perso e in 900 milioni di chilometri in meno i primi risultati degli scorsi mesi di lockdown. I dati sono calcolati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Fra i numerosi viaggi a vuoto, la necessità di anticipare i costi del servizio e i ritardi dei pagamenti, il settore risulta spesso in perdita, nonostante gli operatori non si siano mai fermati. Alcuni comparti, come quello del trasporto dei farmaci o dell'agroalimentare, anzi, hanno lavorato ancora più intensamente. Effetti negativi, quindi, che hanno riflessi anche sull'occupazione, coperti solo in parte dagli ammortizzatori sociali. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, ci occupiamo oggi in questa puntata di uno studio realizzato da Conftrasporto, Confcommercio, sugli effetti del Covid-19 sul settore dell'autotrasporto, ma non parleremo solo di questo perché ci occuperemo anche di dumping, di trasporto internazionale. Faremo tutto questo in compagnia del nostro ospite che è Paolo Ogge, presidente di Conftrasporto, vicepresidente di Confcommercio. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, cominciamo proprio da questo studio. Abbiamo ascoltato qualche minuto fa quali sono i numeri dell'impatto del Covid-19 su questo settore dell'autotrasporto, un settore che non si è mai fermato, ha garantito la sopravvivenza del paese, possiamo dire, perché ha rifornito di generi di prima necessità, ma anche di medicinali l'intero paese, ma che adesso però purtroppo paga il conto di questa emergenza. Ma guardi, direi che questo aspetto legato all'importanza dell'autotrasporto sia stato riconosciuto dal Papa, quindi dal Santo Padre in giù, da personaggi che fanno parte del nostro mondo, e questo certamente è un aspetto importante. Poi scopriamo che nei 57 cavalieri che sono stati riconosciuti come gli eroi di questo periodo, probabilmente qualche funzionario si è dimenticato di questo riconoscimento pubblico che era stato fatto, e neanche un rappresentante dell'autotrasporto è stato insignito del titolo di cavaliere come altri, ma sicuramente quelli che sono stati insigniti lo meritavano ampiamente. Il dato che emerge è direi molto preoccupante. Innanzitutto dobbiamo partire dal clima di fiducia che è calato terribilmente nelle imprese di autotrasporto, perché chiaramente pur se alcune filiere hanno lavorato per poter garantire che il paese non si fermasse, molte invece questa possibilità non l'hanno avuta, quindi il clima di fiducia è fondamentale ed ha avuto un abbattimento significativo. Ecco, veniamo alle misure che sono state prese dal governo in questi mesi, misure generali per le imprese che ovviamente hanno dei risvolti anche per le imprese di autotrasporto, misure specifiche. Quali sono state quelle più significative secondo voi e quali dovrebbero essere messe in campo invece da qui ai prossimi mesi? Ma innanzitutto dobbiamo riconoscere che questo è un merito che deve essere attribuito al ministro De Micheli, che l'autotrasporto è stato inserito in tutte le misure di carattere generale che sono state adottate e assunte per tutte le altre categorie. Poi nella effettiva distribuzione anche noi segnaliamo che molte imprese sono ancora in attesa di ricevere quanto era stato loro per loro ipotizzato, però questo aspetto del riconoscimento dell'attività dell'autotrasporto è certamente importante. E poi abbiamo avuto misure specifiche per quanto riguarda ovviamente il settore, sia per quanto riguarda la questione legata alle revisioni, ai documenti che consentono di poter circolare, che erano in scadenza, ai certificati di qualità, di formazione e quant'altro, che secondo le disposizioni europee avrebbero bloccato soprattutto i nostri operatori che consentono le merci italiane di andare all'estero, quindi l'accesso alla professione, la licenza comunitaria, le carte tachigrafe, la CQC, sono state prorogate, così come l'applicazione del rinvio dei versamenti, quindi sia di contributi che di IVA. Il problema generale qual è? Beh, innanzitutto è consentire a queste imprese a settembre-ottobre, quando diverrà probabilmente un elemento significativo il pagamento dei corrispettivi dei servizi prestati, che questo venga garantito. Ecco perché noi abbiamo subito chiesto che alle imprese di autotrasporto, ma anche alle altre ovviamente, venisse utilizzato il sistema che è stato utilizzato in altri paesi, cioè l'accredito sul conto corrente di liquidità. Perché se a settembre le fatture relative alle prestazioni effettuate nei mesi critici e non verranno soddisfatte, si innesca un circolo vizioso drammatico, perché le aziende, se non ricevono i pagamenti, a loro volta saranno in difficoltà nel pagare i loro fornitori, nel pagare i lavoratori, e quindi questo rischia di creare una situazione esplosiva nel mondo dell'autotrasporto. Questa è una preoccupazione di carattere generale che noi abbiamo sempre evidenziato in tutti i nostri comunicati. Qual è la sua visione? Andiamo un po' più in là nel tempo, proiettiamo questo settore al 2021, al 2022, cosa resterà di questa emergenza in questo settore? Avremmo imparato qualcosa? Ci sarà un miglioramento? Oppure la situazione strutturale dell'autotrasporto rimarrà la stessa? Ma noi ce lo dobbiamo augurare, ce lo vogliamo augurare da italiani e da imprenditori italiani. E ci pare però che segnali concreti non ve ne siano, perché anche negli annunci che sono stati effettuati di concessione da parte dell'Unione Europea di interventi, mi pare di poter dire innanzitutto che dobbiamo passare a parlare del 2021. Noi siamo ancora in attesa di vedere i due provvedimenti, quello sui tempi di pagamento e quello sui costi della sicurezza, che al di là delle volontà enunciate non sono diventati ancora provvedimenti esecutivi. E questo di fronte oltretutto anche a certi episodi che si sono verificati anche recentemente. Mi pare che un'azienda è stata scoperta ad operare al di fuori delle regole, utilizzando personale di altri paesi, non pagando gli straordinari, non pagando il contratto di lavoro. Cioè, quindi esiste la necessità di intervenire con anche provvedimenti specifici sull'autotrasporto. Se restiamo nel campo delle enunciazioni, noi veramente a settembre-ottobre rischieremo di avere un settore paralizzato. Lei parlava di dumping, di concorrenza sleale poco fa. A proposito di questo, c'è una notizia importante di questi giorni, e cioè che la Commissione Trasporti dell'Unione Europea ha approvato il pacchetto mobilità. L'iter è ancora lungo, ovviamente, c'è bisogno ancora di un'approvazione da parte della plenaria, quindi tutto può ancora succedere, però un pezzo di questa strategia contro il dumping sta andando avanti. Ma anche su questo dobbiamo riconoscere l'impegno del ministro De Micheli, perché chi ha, non dico costretto, però chi ha posto con grande determinazione la questione del dumping sociale e quindi delle regole che debbono essere applicate a livello europeo nel Consiglio dei Ministri è proprio stato la ministra italiana. Però è evidente che quei paesi che invece usufruivano di questo dumping sociale, quindi coloro che hanno un costo del personale più basso, che hanno una burocrazia che non è costosa come la nostra, che hanno un sistema più rapido per rispondere burocraticamente alle esigenze delle imprese, beh, io temo che in Parlamento cercheranno di bloccare questa iniziativa, che non è la soluzione di tutto, ma è l'avvio significativo, importante, di un percorso che deve dotare il mondo del trasporto e della logistica di regole uguali per tutti. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Paolo Gè, presidente di Conftrasporto, vicepresidente di Confcommercio. L'appuntamento con la nostra trasmissione torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.